Song indifferent, non me ne importa niente. C'è sta gente che amore e gente che nasce, ma io sono coerente, non mi fa niente. Perché la tristezza che è quella che mi acciro veramente, e fa ridere all'altro, è l'unico potere che tengo.